Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. I figli di Enea. Storie di nuovi italiani. Di Valentina Furlanetto. Da Valentina Furlanetto, nuovo orario, nuovo giorno per la programmazione dei figli di Enea, ma noi siamo sempre qui a raccontarvi le storie degli italiani di origine straniera. Fra loro ci sono tantissimi medici e infermieri di origine straniera che lavorano nelle strutture sanitarie dell'Italia. Sono 65.000, un piccolo esercito che spesso si laurea anche nelle università del nostro paese. 18.000 medici, 38.000 infermieri, molti di loro hanno combattuto negli ultimi mesi per contrastare il coronavirus, come sapete, e quindi abbiamo il piacere di avere con noi per la prima puntata di questa stagione dei Figli di Enea un'infermiera, presidente del gruppo Infermieri del Mondo, peruviana di origine italiana, Rosa Melgareio, benvenuta. Buongiorno e grazie veramente per questa invitazione, sono molto onorata di questa intervista. Rosa, grazie a lei per essere con noi. Lei ha origini peruviane ma è da 30 anni in Italia e appunto è un'infermiera. Come innanzitutto ha deciso e perché di fondare questa associazione degli infermieri stranieri in Italia, che è un'associazione che porta avanti anche degli obiettivi, poi ce li spiegherà, ma da cosa è nata questa esigenza? Abbiamo sentito la necessità di poter confrontarci, condividere idee, esperienze del lavoro, poi soprattutto raccontarci come è il nostro lavoro dentro degli ospedali, dell'RSA e no, con i nostri colleghi italiani e altrettanto con i medici. Qual è la difficoltà che troviamo? Soprattutto abbiamo visto nel primo incontro, mi ricordo benissimo, che molto di noi ci siamo veramente sfogati, raccontato un po', che molto di loro, avendo una grande esperienza, sono venuti già, diciamo, molto di loro che lavoravano nel loro paese, diciamo, con un bagaglio di esperienza, però avevano difficoltà di poter dimostrare la sua esperienza perché come primo la prima difficoltà che si ritrova poi è la parte linguistica, diciamo. Si parla tanto di integrazione, però nessuno poi ha fatto qualcosa per le infermiere straniere, soprattutto un lavoro sull'integrazione dentro di ogni azienda o RSA. Bastava che uno andasse a lavorare, cubriva il turno e punto. E non è così, perché siamo anche noi dei grandi professionisti, però ovviamente mancava questo pezzo, diciamo, di parlare un po' sull'integrazione. Un episodio da cui è nata l'associazione, no? La figlia di una sua amica, se non sbaglio, è infermiera e ha avuto uno sgradevole episodio. Io ho una mia amica, che lei è boliviana, e altrettanto come me qui in Italia 30 anni. Quindi la figlia o i nostri figli che nascono qui, poi no, molto di loro decidono a seguire, come si dice, quello che fa la mamma. E la figlia ha fatto qui l'università per infermiera, quindi lei ovviamente ha preso il titolo qua, ha fatto 3 anni di università e il primo giorno di lavoro, questo è un episodio triste, ecco perché poi ci ha dato l'input ancora di formare questa associazione. Il primo giorno del lavoro, lei quando ha iniziato, c'è stato di fare un ricovero per un paziente che doveva fare un piccolo intervento. Appena questo paziente è arrivato, o utente, perché ormai adesso si dice utente, non paziente, questo utente gli ha visto a lei, ovviamente lei è nata qui, però i genitori sono boliviani e la fisionomia, il colore della pelle, ovvio deve prendere dei suoi genitori. E che è successo? È successo che la paziente, appena visto, quando lei si avvicina al computer per chiedere i dati, le dice: ma lei è capace, capisce quando io parlo, è capace di scrivere bene il mio nome, il cognome? E lei ci è rimasta malissima e gli ha detto: certamente signora, le fa. Ma è sicura di quanto tempo è qui in Italia? E quindi è arrivata un po' una nostra collega e gli ha detto: vabbè, finisco io di fare il ricovero. Rosa, è mai capitata una cosa simile a lei? Un episodio in cui non è stata trattata in modo corretto perché c'era un pregiudizio nei suoi confronti? Beh, sì, anche a me è successo, però vorrei finire di raccontarti di questa ragazza poi. Sì. Diciamo, praticamente è successo che lei è tornata a casa e gli ha detto alla mamma: io sono stanca di quando vado, quando da piccola alla scuola, all'elementare, alle medie, sempre mi hanno detto di quanto tempo sono qui, si parlo bene l'italiano. E fa: perché mamma, io vorrei tornarmene al nostro paese. E questo c'è stato, che poi loro due si sono messi a piangere, madre e figlie, e questo posso dire io, purtroppo anche a me successo anche con uno dei miei figli, diciamo, che ha preso più la fisionomia di me che di mio marito, perché mio marito è italiano, le due ragazze invece hanno preso di più del papà. E quindi ho visto anche su mio figlio che molto gli hanno detto: ma per quanto tempo sei qua? Questo anche le scuole. Quindi a me particolarmente successo, anche a me. E non solo a me, noi in questo gruppo quando parliamo, molto dei nostri colleghi, a molte è capitato. Ho letto anche che addirittura un infermiere di origine sudamericana che lavorava in Italia, a lui è stato chiesto se operava con il machete. Questo è successo tanti anni fa, diciamo, è stato raccontato da un medico, da una nostra amica, che lei praticamente, essendo medico in Perù, è venuto qui per convalidare il suo, diciamo, la laurea di medico, di medicina, e qualche battuta c'è stato che gli hanno detto, ovvio, mi sembra una battuta un po' fuori luogo, no? Mm-hmm. E quindi per dire, non solo noi infermiere, anche io parlo per questa conoscente, diciamo, non parlo degli altri, che una sera parlando fra noi dice: guarda che anche a me è successo, me l'hanno detto, e quindi non è nuovo su questo. Your flaws just die, plant new seeds in the melody, let me inside, I wanna get to know you. A parte le discriminazioni di questo tipo, che sicuramente fanno male, fanno pensare, c'è poi anche una discriminazione di tipo economico e di tipo di diritti, perché infermieri di origine straniera che non hanno la cittadinanza non possono concorrere nei posti pubblici, e talvolta negli ospedali e nelle cliniche private vengono pagati meno. Verissimo, il nostro obiettivo è quello nostro, infatti abbiamo detto di uscire dalla invisibilità di infermiere straniere, perché qui l'altro obiettivo della nostra associazione, del nostro gruppo, sarebbe di evitare questa infermiere di serie A, serie B. Questo è anche per, diciamo, soprattutto negli altri paesi europei, quando uno ha un titolo o lo ha acquisito o ha fatto la equipollenza, possono partecipare liberamente ai concorsi pubblici, cosa che in Italia, se tu non hai la cittadinanza italiana, non puoi partecipare. Anche se si è fatto gli studi in Italia, quindi se l'Italia ha pagato praticamente per formare una persona, poi non la può utilizzare negli ospedali pubblici. Questo no. Non accade negli altri paesi in Europa? No, non accade. Quindi qui, anche se si fa una persona all'università e non ha la cittadinanza, non può partecipare al concorso pubblico. E dove vanno a lavorare queste persone? Vanno a lavorare all'RSA o altrimenti molto di loro finiscono nelle cooperative e poi ovviamente si sa come lavorano le cooperative, né? Molto di loro sono un po' sottopagati, diciamo, parliamoci chiaramente, è così. Io non ho nulla con le cooperative perché in realtà danno lavoro, fanno lavorare, però le infermiere straniere che è quello, vanno a finire molto di loro. E tanto è vero, durante la pandemia del coronavirus, molto di loro hanno dovuto essere di fronte a questa battaglia con questi nemici invisibili senza dispositivo di protezione. Alcuni di loro si sono anche ammalati pesantemente, alcuni sono stati licenziati perché hanno chiesto i dispositivi. Alcuni di loro, penso che c'è stata una nostra collega quando ha chiesto, diciamo, anche delle mascherine, queste gli davano le mascherine per 2 o 3 giorni e questo lo trovo assurdo. Assurdo perché in realtà è vero che questo ci ha trovato sprovviste a tutti, sia al pubblico che al privato, che nessuno è stato preparato per questa guerra con un nemico invisibile, perché pues, non solo in Italia, penso a livello mondiale, globale, il sistema sanitario non è stato preparato per questo. Perché? Perché non si investe. E quindi, perciò, ritornando ai nostri colleghi, quello che lavoravano sul privato, è vero che sono anche morti, e soprattutto la cosa più triste è che molti di loro sono morti lontano del loro paese, del loro parente, dei loro figli, senza avere l'opportunità, l'occasione anche di un addio. È vero che anche qui si sono morti da soli, però ancora di più queste colleghe straniere, e non abbiamo, io non ho sentito una parola, io parlo durante la pandemia, una parola che dire, per carità, si parlava in generale di tutte le infermiere, però avessimo voluto una parola di dire, molto dei nostri colleghi stranieri che lavorano qui, che sono a fronte a lottare insieme, come si dice, con i nostri colleghi italiani, hanno perso anche la vita e non abbiamo sentito questo, si parlava in generale. Abbiamo una piccola pausa, ma torniamo con lei tra pochissimo. E vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via. Calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini. Inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro! E gol di Schillaci ancora! Tanti le chiamano storie di sport. Per me sono storie della nostra storia. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni sabato alle 22.30 e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia per raccontarvi tutte le sfide tra gli dèi dello sport, naturalmente qui su Radio 24 e su radio24.it, il podcast e i contenuti extra di ogni puntata. I figli di Enea. in studio con Rosa Melgareio, che è presidente di questo gruppo Infermieri del Mondo, gli infermieri italiani di origine straniera che lavorano nei nostri ospedali, nelle cliniche private, nei laboratori. Il presidente della Repubblica Mattarella ha insignito del titolo di cavaliere al merito un rugbista italiano di origini congolesi. Durante il lockdown aveva fatto il volontario proprio sulle ambulanze a Parma, e poi anche un rider di origini libanesi che aveva regalato delle mascherine alla Croce Rossa. Tra l'altro è stato ospite qualche mese fa ai Figli di Enea. Nessun infermiere di origine straniera, e uno di questi infermieri di origine straniera che purtroppo è morto durante il Covid è Javier Chunga, che il 20 di agosto è stato ucciso dal coronavirus. Lavorava nella terapia intensiva dell'ospedale Valduce di Como. Ora si sta cercando di dargli un riconoscimento postumo, però è solo uno dei tantissimi infermieri che hanno lavorato per sconfiggere il Covid, Rosa, no? Sì, è vero, io sono finalmente... Era anche di origine peruviana come lei. Peruviani, peruviani come me, io mi auguro, perché prima di questo episodio dei nostri colleghi, del nostro collega lui che di Javier, diciamo, abbiamo scritto 2 o 3 lettere noi a 2 o 3, come si chiama, giornalisti, diciamo così, dove abbiamo chiesto la sensibilizzazione, diciamo, di fronte un po' alle infermiere straniere. Forse è arrivato qualcosa, diciamo, perché abbiamo fatto una lettera anche tramite, adesso non mi ricordo, Sole 24 Ore, quindi abbiamo fatto una lettera dove abbiamo chiesto anche al presidente di non... Avete avuto una risposta? No, non abbiamo avuto una risposta, e quindi perciò è rimasta una lettera così, anche la lettera un po' invisibile, nonostante abbiamo messo noi il nostro recapito telefonico e l'email. Rosa, tornando alle discriminazioni economiche, quanto guadagna un infermiere normalmente e quanto guadagna più o meno un infermiere che viene assunto privatamente, quindi da una cooperativa di solito, no? Per esempio, l'infermiera, lo stipendio nel pubblico parte con 1.500, e questo è. Quindi sul privato, diciamo sull'RSA cooperativa, con 1.200-1.300, facendo notte, lavorando le domeniche. Sì, è un paradosso, perché pensa lei che l'operatore sanitario, che è il nostro braccio destro, dico io, è più o meno lo stipendio, una differenza di 200 euro, 300 euro. Lei ci sta parlando di uno stipendio che è la metà. Com'è diciamo possibile aggirare il contratto dei giornalisti? Perché? Perché ogni... ecco perché noi vogliamo uscire dal comparto, perché praticamente ogni cooperativa ha un diverso tipo di contratto, e quindi mettono come loro, per dire così, o per dire magari un RSA c'è un stipendio magari di 50 euro in più e l'altro no, perché sono privati, ognuno fa le sue... e stabilisce lo stipendio, diciamo. Quello non so dire su che base o come, che però sono per certa sicura che lo stipendio 1.250-1.300 per gli infermieri che lavorano in RSA. Rosa, tornando invece alla sua esperienza, lei, lo dicevamo all'inizio, è arrivata in Italia molto tempo fa, si è data da fare come infermiera, ha lavorato come infermiera, ma in realtà non è venuta per lavorare, lei è venuta in vacanza. Ci racconti qualcosa di più di lei? Praticamente sono venuta per fare una... Io sono figlia unica, quindi non stavo neanche tanto male in Perù. Sono venuta a fare una vacanza qui in Italia, poi dovevo fermarmi soltanto un mese finendo tutto un tour, no? Che mi aveva pagato il nonno. Solo che poi ho conosciuto una persona, diciamo una famiglia molto benestante a Bergamo, che tutt'altro aveva anche un amico della famiglia adottato un bambino peruviano, che è un chirurgo che lavorava a Manerbio, adesso non lo so se lavora lì. E tramite lui ho trovato, mi fa, ma perché ti deve ritornare così in Perù? Mi fa, perché non lavori 2 o 3 mesi? Ma vabbè, era una famiglia benestante, quindi mi sono fermata a lavorare come badante di una signora. E lì poi nel frattempo ho conosciuto mio marito. Golden, golden, golden as I open my eyes. Adesso Rosa, lei ha la cittadinanza italiana? Sì, ho la cittadinanza italiana e ho, diciamo, ho 3 bellissimi ragazzi. Qui io ringrazio tanto, tanto all'Italia perché, tanto è vero, a un congresso mondiale che è stato nel 2019, dove è venuto fatto a Cancun in Messico, dove sono state presenti 21 paesi del mondo, 21 infermieri del mondo. Io sono andata lì con la bandiera italiana rappresentando l'Italia. E questo vuol dire cosa possiamo fare anche noi figli adottivi, diciamo, no? Per il paese che ci adotta, portare il nome dell'Italia. È un congresso così importante. Per me è stata un'esperienza bellissima. Ovvio, tanto per sdrammatizzare, ridere un po', quando hanno chiamato l'Italia tutti si aspettavano una bionda alta, e invece poi hanno visto una peruviana piccolina, la bandiera molto più alta. Rosa, lei voleva fare un appello in chiusura, no? Sì, volevo fare un appello, diciamo, perché a tutte le istituzioni della sanità, non solo dell'Italia, speriamo che si ascoltano anche degli altri paesi, di tutto il mondo, di investire sulla sanità. Io spero che questa catastrofe, questa maledetta pandemia del coronavirus che non ha risparmiato a nessuno, abbia fatto capire a essere più sensibile a tutte le persone che tengono delle istituzioni della sanità, perché hanno investito tantissimo sull'altro tipo di guerra, nucleare, armamenti, tutti quanti, ma nessuno ha fatto conto che poteva capitare un nemico invisibile chiamato coronavirus, che ci siamo trovati impreparati, non solo in Italia, in tutto il mondo. Grazie a Rosa Melgareio, infermiera italiana di origini peruviane, per essere stata la prima ospite di questa stagione di Figli di Enea, che vi aspetta sabato prossimo, sempre sulle frequenze di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Io vi auguro una buona domenica, a domenica prossima, ciao! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.